Europa 24. Ancora un saluto da Gigi Donnelli. Anche oggi ripartiamo di fatto da questa frontiera orientale dell'Europa, al di fuori dell'Unione Europea, ma proprio per questo al centro, anche per questo al centro di una crisi drammatica. Nelle prossime ore il presidente dell'Ucraina, Petro Poroshenko, presenterà al Parlamento il progetto di legge sull'accordo di associazione dell'Ucraina all'UE. La notizia che era stata anticipata già nei giorni scorsi riporta quel tema centrale della posizione di Kiev rispetto, da una parte diciamo, a Bruxelles, all'Unione Europea, all'Occidente, e dall'altra l'area di Mosca, quella che una volta avremmo definito appunto il blocco dell'Est. Ecco, è proprio il Cremlino che comunica su questa iniziativa di Kiev quelle che sono le conseguenze negative di questa intesa. Che cosa si tratta? Si tratta da un lato di una parte commerciale dell'accordo molto importante, quella che introduce una zona di libero scambio tra Unione Europea e Ucraina, una area di libero scambio che non potrà comunque entrare in vigore prima del 2015, della fine del 2015, così infatti è stato definito nella trattativa delle parti. Da questo punto di vista i più filo-occidentali tra gli ucraini si sono lamentati esplicitamente perché l'aspettativa era di entrare in questo accordo già all'inizio del 2015. Insomma, tensione ancora su questo fronte in un giorno in cui, l'abbiamo segnalato, sono iniziate le esercitazioni di Rapid Trident, di fatto una sorta di prova generale di NATO in territorio ucraino. Questo dunque sul fronte e naturalmente attenderemo nelle prossime ore di verificare la firma, la conclusione di questo accordo sull'adesione dell'Ucraina alla zona di fatto di libero scambio europea. E ora un altro tema che porta al tema della politica, dell'affidabilità, ma anche la percezione della democrazia in Europa. Un'indagine effettuata dallo European Social Survey illustra in che modo i cittadini del vecchio continente vedono la loro forma di governo democratica. In un'Europa sempre più estesa, in un'Europa in cui la democrazia rappresenta un pilastro delle forme di governo, emerge una percezione diversa della rappresentanza democratica. Un'indagine dello European Social Survey quantifica la differenza fra l'ideale e il reale, fra quello che i cittadini dei 29 paesi coinvolti nell'indagine hanno realmente e quello che idealmente vorrebbero. Leonardo Morlino è professore di scienza della politica all'Università Luiss di Roma ed è fra i curatori dell'indagine. Spiega che tipo di divario esiste fra i paesi del Nord Europa e del Sud. L'impatto della crisi si sente, la differenza tra i paesi del Nord Europa, i paesi a maggiore qualità democratica del Nord Europa e i paesi del Sud Europa si sente enormemente. Il divario si emerge, ma emerge soprattutto nei nostri paesi, invece che ai paesi, per esempio, del Nord Europa, dove emerge assai di meno. Una domanda molto forte che rimane insoddisfatta nel Sud di eguaglianza, di democrazia sociale, di diritti sociali, mentre al Nord questo non c'è, cioè questo aspetto si sente più realizzato. Restringendo il campo all'Italia e alla percezione che gli italiani hanno della democrazia e del proprio sistema politico, il risultato è fortemente al ribasso. Il giudizio dei cittadini è talmente negativo che l'Italia, nonostante 70 anni di forma democratica, è collocata al terzultimo posto della classifica di 29 paesi, dopo il Kosovo e poco prima della Russia. Notevolmente negativo, e tra l'altro è tradizionale la valutazione negativa della democrazia italiana, e quindi questo rispetto alle altre democrazie lo conferma. Stefano Totoro, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto anche per Europa 24, ci sentiamo domani alla stessa ora. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.